Riflessioni da Marte. Ammettiamolo, quassù su Marte c'è una temperatura piuttosto fresca dopo i meno 140 dell'inverno, ma guardando giù col telescopio sul globo terracqueo e in specie sul suolo italico non si può non osservare il diffuso patimento da calura. L'italica penisola, anzi nei presenti giorni, evoca più che mai, se ci pensiamo, la commedia dantesca. Il paradiso di due gol del successo tecnico montiano, il limbo dei tapini esodati senza pace e il caldo infernale dilagante traghettato da Caronte. E a proposito di caldo, diciamolo, la calura cagiona specie su taluni bizzarri effetti, qui di seguito alcuni esempi. L'amministratore Fiat definisce folklore locale la sentenza di Pomigliano, la ministra Fornero afferma che il lavoro non è un diritto, il pidellino Cicchitto lancia l'allarme vacanze per i parlamentari prigionieri del duro lavorar. Un caldo, insomma, che ha i suoi begli effetti collaterali. Un caldo che non fa tanto bene neanche ai terremotati emiliani e il freddo di sicuro gliene farà ancora meno. Ma scusino, esimi parlamentari italici, non avevate forse promesso di devolvere una parte dei vostri esigui rimborsi elettorali, 91 milioni su 180 milioni di euro, ai territori colpiti dal sisma? Che fine fecero quei soldi? Ma sarà che col caldo evapora anche la memoria. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Che il povero sia in fondo un gran signore, che il servo stia assai meglio del padrone, che le persone anziane stiano benone, che i giovani abbiano sempre un'occasione. Facciamo finta che